Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole. Noi ne diciamo tante tutti i giorni. Speriamo non avvanvera, Nicoletta. Che ne dici? Però, insomma, ne dobbiamo per lavoro pronunciare veramente moltissime. Siamo in radio, d'altronde non potrebbe essere altrimenti. Noi diciamo parole di cuore e di denari. E oltre a dirne ogni giorno, come tutti, le cerchiamo spesso al minimo dubbio o alla minima curiosità, consultando. Sì, a fare una brutta figura. Aiuta. Esatto. Consultando, oggi ci aiutano moltissimo i motori di ricerca, no? Su internet. E certo. E ormai osservare le tendenze delle nostre ricerche dice qualcosa della nostra società. Allora, questa mattina, proprio alle 9, Google Italia ha pubblicato le liste delle parole più cercate dagli italiani nel 2016. Al primo posto, pensate un po', c'è Pokémon Go. Però al decimo vedo una parola che abbiamo contribuito molto anche noi a far circolare, che è stata Brexit. Anch'io ho trovato le parole di cuore, perché tra queste liste, certo, non potevo rimanere indietro, c'è la lista dei perché. E al sesto posto troviamo perché fumi, sì, che è una bella domanda a cui spesso abbiamo cercato di rispondere e anche di spiegare perché è bene non fumare. Ci sono le puntate nel nostro archivio, ma c'è anche, Deborah, la lista delle ricette. Dimmi. Il più cercato, indovina, è? Dimmi, un dolce, una il pasta? Il tiramisù. Dai, perché ma tu sei la... Io so fare, so che a tua figlia piace molto, ecco, come io voglio io. Dire che a casa nostra abbiamo nominato Deborah regina del tiramisù. Sì, però non è che in me realtà, lo porti tanto spesso, sì, purtroppo. Una regina una volta ce l'ha fatto, poi vabbè. Perché ho paura che non mi rivenga più nella stessa maniera. Intanto raccontateci la vostra ricetta del tiramisù e la confrontiamo con Deborah. Allora, invece, per quello che riguarda le Google parole più digitate, dal punto di vista dei denari, secondo te, non andavo a controllare, poi allora c'è. È stata molto digitata quest'anno la frase come risparmiare e al primo posto, per la precisione, la frase completa ricercata dagli italiani era come risparmiare sulla bolletta elettrica, al secondo posto come risparmiare sui voli, al terzo posto con i coupon. Fra le parole invece nel mondo degli investimenti, il termine più cliccato, più digitato è stato diamanti. Però, e voi che cosa avete googlato nel 2016? Vi siete mossi più... Ridimmelo un po' un'altra volta. Sul cosa googlato. Avete... Bravo, è venuto meglio. Vi siete mossi più sulle ricerche di cuore e di denari? Perché guardavo Carmelo e tutte le volte che lo guardo, insomma, mi impapero. Che non googlare. Raccontatecelo all'800240024. Adesso lui si nasconde e poi non ci dà la linea. Oppure mandateci un WhatsApp. Andiamo con la nostra... rassegna di denari, esatto. Si emoziona, c'è questo feeling oggi tra me e Carmelo. Basta che ce la tiene un po' bassa la musichetta che introduce la rassegna stampa veloce di denari. La borsa Milano piatta in questo momento, leggermente negative le altre piazze europee, ma abbiamo una seduta di consolidamento dei rialzi di ieri che sono stati particolarmente sostenuti per Piazza Affari. Allora, ben tre titoli in questo momento che corrono con rialzi di oltre 5 punti. Abbiamo la Popolare di Milano e il Banco Popolare, poi Mediaset più 5%, il gruppo al centro della cronaca finanziaria nelle ultime ore perché è partito l'assalto del colosso francese Vivendi, che attualmente ha annunciato di detenere una quota del biscione del 12,3% con l'obiettivo di arrivare al 20% entro Natale, quindi ancora un nuovo gruppo francese alla carica per conquistare un gruppo italiano. Fininvest sta provando a mettere in campo tutte le iniziative per proteggersi da questa vera e propria scalata ostile, ma insomma una gran bella battaglia che sta animando la cronaca finanziaria. Monte dei Paschi, segnaliamo, perde il 2%. Oggi c'è un consiglio di amministrazione nel pomeriggio per un nuovo esame del piano di ricapitalizzazione. Dovrebbe arrivare a breve il verdetto della Consob sui bond da convertire, tema che abbiamo affrontato lungamente ieri a Cuore e Denari. E poi abbiamo tra gli altri ribassi quello di Buzzi Unicem, meno 2, Recordati meno 1, Snam meno 1. Fra gli altri rialzi invece, con un progresso di oltre un punto, Ubibanca, Mediobanca e Saipem. Unicredit, dopo il volo di ieri, oggi frena leggermente, piccole prese di profitto, ma il gruppo ieri ha presentato un importante piano industriale che è stato promosso dai mercati. L'altra notizia della giornata, riunione oggi e domani, no, riunione che è iniziata ieri sera e termina oggi, della Federal Reserve, Banca Centrale Americana, stasera alle 20 si comunica la decisione sull'aumento dei tassi di interesse. E dopo avervi aggiornati sulla borsa, cambiamo argomento, andiamo a parlare di petrolio e carburanti. Se vinco mi danno un litro di... Allora, stanno proseguendo, lo dicono proprio le agenzie in questi minuti, lo stanno ormai segnalando costantemente da qualche giorno, i rialzi sulla rete carburanti italiana, con i mercati internazionali dei prodotti petroliferi che si sono raffreddati dopo l'impennata seguita all'accordo OPEC non OPEC, si registrano oggi ancora gli aumenti dei prezzi raccomandati di benzina e diesel. Segnalo quello che segnalano le agenzie, IP più 1,8 centesimi, esso in rialzo di un centesimo appunto al litro evidentemente, e si erano già mosse rispettivamente ieri e lunedì, ma anche Tamoil più 1%, fatto così un po' un punto della situazione, anche raccontando come si stanno comportando i grandi brand internazionali. Insomma, il prezzo del petrolio ha ripreso a salire e, come spesso capita in Italia, in automatico e molto rapidamente si aggiornano anche i prezzi praticati alla pompa. Parliamo di questo argomento stamattina con un ospite che ci presenta, a beneficio dei nostri ascoltatori, un nuovo strumento per tenere sotto controllo l'andamento dei prezzi. Allora do il buongiorno a Fabio Disconzi, esperto di Open Data, che sul suo sito ha creato l'osservatorio agile ed online sui prezzi dei carburanti, Open Carburanti. Fabio, buongiorno e benvenuto a Cuore Denari. Buongiorno Deborah e Nicoletta e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, ci racconta che tipo di lavoro ha fatto e con quali obiettivi, appunto, a vantaggio e a beneficio soprattutto dei consumatori che consulteranno il vostro servizio. Esattamente, allora anch'io sono un consumatore di carburanti e tutto è nato da una vacanza, da un viaggio in auto nel quale ho visitato in lungo e in largo tutta l'Italia e quindi ho osservato delle grandi differenze di prezzo e mi sono incuriosito al tema. Esattamente, allora, Fabio, la interrompo, quello che è successo a me nei giorni scorsi. Un conto era il prezzo praticato dal distributore sotto casa, in autostrada una differenza enorme, pure questo vizietto qua, se non se lo tolgono le compagnie, di praticare prezzi radicalmente differenti tra autostrada e rete stradale ordinaria. Chiusa parentesi, poi magari gliela lascio commentare. Quindi, insomma, partendo da un viaggio, notando prezzi molto allora diversi. Mi sono detto, provo a fare qualcosa per capire di più, ed è nato l'osservatorio Open Carburanti. Insomma, io ritengo che gli Open Data siano uno strumento fondamentale, uno strumento formidabile per attivare un dibattito che sia sano e concreto e soprattutto trasparente su argomenti che a volte sono ritenuti spinosi e nebulosi, come ad esempio il legame tra prezzo del petrolio e prezzo dei carburanti. Esatto, e soprattutto allora, quello che noi non capiamo, Fabio, è il motivo per cui quando il prezzo dei carburanti, il prezzo del greggio a livello internazionale cresce, al rialzo i prezzi si adeguano immediatamente. Al contrario, la discesa non avviene mai altrettanto velocemente. Queste sono delle inerzie che dall'osservatorio Open Carburanti si possono evidenziare, ma da parte mia non mi sento in grado di Allora andiamo di al tema su cui è più ferrato. Sì. Lei ha stilato una vera classifica delle regioni e delle province italiane basata sui prezzi della benzina. Allora Ci dica subito dove è più conveniente fare il pieno e dove invece ci costa di più. Allora, secondo le mie analisi, a livello regionale, la regione con i prezzi minori è la regione Veneto, mentre la regione con i prezzi maggiori, mi dispiace per gli amici siciliani, è appunto la Sicilia. Ecco, approfondendo invece la situazione delle province? Allora, a livello provinciale, dalle elaborazioni, emerge che Rovigo è la provincia con i prezzi minori, mentre Agrigento è la provincia con i prezzi maggiori. Le vostre indagini, Fabio, con quale frequenza vengono aggiornate? Ha già adeguato il vostro monitoraggio ai rialzi che hanno seguito l'accordo fra i paesi produttori di petrolio? Allora, ci sono diversi strumenti sul sito. Quello che mostra il prezzo medio nazionale viene aggiornato con una frequenza giornaliera ed è in ritardo di un giorno rispetto ai dati comunicati dal MISE, dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Le classifiche provinciali invece vengono aggiornate ogni settimana. Certo. Dallo strumento si vede, perché faccio delle linee di tendenza, si vede che il prezzo negli ultimi soprattutto 20 giorni, 15-20 giorni dopo l'accordo dell'OPEC, ha iniziato a ricrescere. Senta Fabio, prima di salutarci, ci conviene fare uno sforzo quando cerchiamo il distributore più conveniente, impegnarci un po' di più, fare un giro un po' più lungo per cercare il cosiddetto distributore indipendente, la pompa bianca, che in realtà non ce ne sono tante in Italia, sono anche difficilmente raggiungibili questi distributori senza brand noti, però insomma dove fare il pieno è davvero più conveniente. Che suggerimento da questo punto di vista da parte sua? L'opinione che questi distributori chiamati pompe bianche siano più economici di quelli più famosi è abbastanza diffusa e ho voluto verificarlo utilizzando i dati. Quello che è emerso è che le maggiori differenze si hanno per il servizio, e qui i prezzi sono a favore delle pompe bianche del 6% per la benzina e addirittura del 7% per il gasolio. Però, mentre a livello nazionale per i suoi service la differenza sempre a favore delle pompe bianche è del circa 1%. Quindi conviene se abbiamo una pompa bianca nelle immediate vicinanze. Benissimo. Allora, grazie a Fabio Disconzi. Ricordo che dal sito è possibile individuare anche il distributore più economico della propria provincia, per cui potete collegarvi sul sito www.fabiodisconzi.com/open-carburanti. Lunghissimo, lo faremo circolare sui nostri social network. Fabio, buona giornata e grazie. Grazie a voi, buona giornata. Nicoletta, andiamo al traffico? Volentieri. A presto. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno inclusi nel prezzo. Vi presenta. Cuore e denari. E di aria, o meglio della qualità dell'aria, torniamo come promesso a parlare col dottor Mauro Mocci, medico ISDE, che è l'Associazione Medici per l'Ambiente, che è in linea con noi. Buongiorno dottor Mocci, bentornato. Buongiorno. Allora, con lei aggiorniamo gli ascoltatori sullo stato dell'aria nelle città italiane, un appuntamento che abbiamo inaugurato lunedì e che ritornerà anche venerdì alle porte di un weekend che in alcuni comuni sarà caratterizzato dai blocchi del traffico, perché dottor Mocci la situazione è direi stagnante, non sta migliorando, sì, anzi, no, proprio per questa alta pressione le polveri e le previsioni purtroppo non ci aiutano, non sono pessime per quanto riguarda tempo buono e quindi inquinamento alto, purtroppo, perché l'unico elemento che può pulire un po' l'aria è la pioggia, che non è prevista per questi giorni, e quindi continuiamo ad avere situazioni veramente preoccupanti. Oggi andiamo a vedere tre città, sì. Napoli, Roma e Torino, ma comunque in generale in Italia l'inquinamento è molto molto alto, vediamo i semafori così come li abbiamo definiti. Vediamo subito a Napoli un semaforo arancione, non tanto per non solo per il particolato, cioè per il famoso famigerato PM10, ma perché lì i livelli di diossido di azoto sono elevati, sempre per colpa e responsabilità delle combustioni e quindi del traffico veicolare. Poi, E che ricadute hanno sulla salute? Ricadute sulla salute assolutamente rispetto alle polveri sottili. Le polveri sottili hanno un effetto, all'interno delle polveri sottili troviamo dei metalli e sostanze chimiche. Il diossido di azoto è un irritante, uno dei peggiori inquinanti dal punto di vista dell'apparato respiratorio, perché dà degli effetti immediati. Irritazione, la gola fastidi, che pizzica, fastidia la gola, esatto, fastidia la gola e dà problemi all'apparato respiratorio in generale, quindi favorisce anche le infezioni perché irrita molto le mucose. Quindi Napoli arancione per il biossido di azoto? Sì, Roma diamo un arancione quasi rosso per il particolato, perché purtroppo nonostante la domenica ecologica che si è fatta, ma come diciamo sempre sono provvedimenti che purtroppo non risolvono il problema. Si dovrebbe dire lasciano l'aria che trovano? Esatto, lasciano l'aria che trovano e non ha risolto il problema, quindi diamo un arancione rosso anche a Roma e anche oggi lì ci sono dei provvedimenti di limitazione del traffico e io spero che gli automobilisti li rispettino, perché altrimenti è inutile. E diamo a Torino un bel rosso a Torino, perché sono giorni che sta superando e lì da oggi inizierà anche lì provvedimenti di restrizione sul traffico, del blocco del traffico a Torino. Non ti ci mando questo weekend, Nicoletta, te lo dico già subito. Ma devo andare perché mia mamma vuole fare la spesa per Natale, mi tocca, vado con la mascherina. Quindi Torino rosso. Il nostro Torino, però devo segnalare che anche per gli automobilisti non è facile sapere le fasce orarie, che tipo di macchina, perché le direttive che vengono date, cioè i provvedimenti che vengono presi, uno deve sapere se Euro 3, Euro 4, Euro 2, in quella fascia, in quell'altra fascia, non è semplice. Allora bisognerebbe impegnarsi di più come amministrazioni per dare delle indicazioni più chiare. Vuole dare un consiglio e noi chiediamo anche consigli, segnalazioni dei nostri ascoltatori che riceveranno a casa il kit dell'inviato. Un ascoltatore che possiamo dire un inviato a metà, ci tira le orecchie e ci scrive subito. Ma che dite, a Firenze piove ora? Questa è già una buona segnalazione, quindi ringraziamo subito il nostro primo inviato che se chiama o manda una mail a Cuore Denari con i suoi riferimenti riceverà il kit dell'inviato. Ma segnalateci anche buone pratiche. Brava, esatto, ecco. Infatti. Vedremo subito se l'effetto della pioggia ha assortito qualche cosa, vedremo domani o dopodomani i livelli di inquinamento come saranno andati. Purtroppo le ARPA ci segnalano soltanto dopo pochi giorni i dati validati, perché non abbiamo ancora la possibilità di avere in tempo reale i dati dell'inquinamento. Ecco, questo perché per validarli le ARPA hanno bisogno di uno o due giorni, alcune regioni ce le danno dopo 3-4 giorni addirittura, per cui servono a poco o a nulla. Il consiglio di oggi, per favore, lo possiamo fare tutti, quando dobbiamo fermarci per soste lunghe spegniamo la macchina, perché io vedo, e lo vediamo tutti, persone che vanno a fare acquisti, rimangono in macchina con il motore acceso. È un inquinamento che potrebbe essere evitato. Anche chi lo fa per lavoro, vediamo tanti pulmini che vanno a scaricare e lasciano i motori accesi. Questo è un comportamento che va assolutamente per quel poco che possiamo fare individualmente. Quindi spegnere i motori, e l'altra cosa che possiamo fare individualmente, abbassare le temperature, soprattutto nei posti di lavoro dove ci si muove, certo. Non c'è bisogno di stare a 27 gradi. Sono più che sufficienti, anzi, dal punto di vista della salute. Anche perché le basse, vero? Che quando la temperatura scende si produce il grasso bruno. Si lavora meglio. E molto, sì, il grasso bruno è quello buono. Esatto. Dottor Mocci, noi torniamo venerdì alla vigilia del weekend per il nostro appuntamento sulla qualità dell'aria. Lei come se la cava col tiramisù? Io lo apprezzo molto. Lo mangia soprattutto. Esatto. Allora sentiamo Anna dalla provincia di Vicenza. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori. No, perché vedo che il Veneto che si declama come la patria del tiramisù, ce lo racconta allora, anche Vittorino da Treviso. La regina del tiramisù è Deborah. Ma però figuriamoci, potrebbe essere. Ma Anna, buongiorno. Che giusto una volta non è venuto bene. Si ripeterà mai più. Anna, la ricetta del tiramisù parte anche a lei il kit dell'inviato, perché è un inviato dalla cucina. Grazie. Allora, guardi, l'importante è avere il mascarpone fresco, non quello confezionato, e tirarlo fuori dal frigo prima, che non sia proprio duro. Bello cremoso. Tante ricette importanti. Guardi, io ne faccio 7-8 etti, perché lo faccio grande. Beh, ovvio. E vado anche sul chilo delle volte. 3 rossi d'uovo, non di più, perché mi piace che la crema sia bianca. Sì. Poi li sbatto bene con zucchero a velo e zucchero quello fino. Sì. Capisce? Ne metterò 2 etti e mezzo di zucchero. È un po' dura perché sa assorbirli. Poi aggiungo il mascarpone, piano lo amalgamo, i bianchi d'uovo li monto a neve fermissima con un pizzico di sale e li aggiungo. Li guardo io se tutti o no, sa. La crema resta soffice e sta su, sollevata. Dunque si possono fare quei bei stratoni, no? Anna, grazie per questa ricetta. C'è la saliva che cicola sul collo. Anna, Vittorino da Treviso, città natale del tiramisù, prosecco e radicchio di Treviso. In più lavoro nel settore carburanti, oggi mi sento a casa. Bravo, continua a seguirci. Anna, un bacio, noi andiamo a sentire il nostro GM. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. State ascoltando un programma offerto da Aceto Balsamico di Modena del Duca, per un Natale al vertice del sapore. Cuore e denari. Oggi abbiamo colto il desiderio e anche la voglia di condividere e di parlare di quella fatica con cui ci misuriamo ogni giorno, sempre impegnati a superare, affrontare sfide, contrattempi, delusioni, problemi e spesso noi ci sentiamo inadeguati, pensiamo di non farcela, abbiamo proprio la sensazione che ci manchino le energie, le competenze, questo produce una sorta di stress, ce lo fa vivere male. Per questo oggi abbiamo deciso di provare a ragionarci e provare a cambiare le regole del gioco, capire se c'è un modo, una ricetta per farlo. Francesca Wondi si è battuta per questo sino all'ultimo, per dirci proprio con il suo esempio che ce la possiamo fare, se non a cambiare la storia, il modo in cui la viviamo e l'affrontiamo, perché Francesca era convinta che ci fosse una Wondi in ciascuno di noi. Iniziamo a dire che non si può essere Wondi per caso, bisogna avere la stoffa e tu la racconti così. Sono Wondi per 3 semplici motivi. Primo, lo sapete già, la mia fissa per la supereroina nata da bambina è mai superata. Secondo, a poco più di 20 anni i miei amici Marco e Alessandro hanno trasformato la mia fissa in un soprannome e questo nomignolo nessuno me lo ha più tolto di dosso. Terzo, negli anni 90 il Wonderbra era un must, un oggetto quasi magico. Con tutte le sue imbottiture davanti e di lato, trasformava in una donna prosperosa anche un asse da stiro. Ricordo che lo tenevo in un cassetto come un gioiello prezioso da indossare solo per occasioni speciali. Ora che sono alla soglia dei 40, oddio, non mi serve più un reggiseno push-up in silicone o imbottito. Oggi, non l'avrei mai pensato, ho un seno che sta su da solo e con un top scollato faccio la mia porca figura. Dopo aver vissuto queste esperienze ho deciso che era il caso di raccontarlo non tanto per me ma per gli altri, perché probabilmente anche condividere un'esperienza così difficile, che però è stata superata con il sorriso, ho pensato potesse essere una buona cosa anche per chi magari fa un pochino più fatica. Questa è Francesca nella puntata del 27 febbraio del 2014 in cui è venuta a parlare del suo libro Wondi, di cui abbiamo sentito un estratto letto da Alessandra Tedesco, la nostra TED. Ovvero Wondi, ovvero come si diventa supereroi per guarire dal cancro, Rizzoli Editori. Allora cercasi oggi Wondi, cercasi donne, cercasi uomini che hanno deciso, stanno decidendo di provare a farcela. Si sforzano insomma di mettere a tacere la paura di fallire, di perdere tutto, facendosi ogni giorno coraggio e quindi impiegando tutte le energie per continuare a coltivare l'amore per la vita e per continuare a vederla bellissima nonostante tutto. Oggi all'800 24 00 24 cercasi uomini, donne, padri, madri, sorelle, figlie, mariti che ogni giorno provano proprio a soffocare il pianto con un sorriso, la tristezza con l'ironia e continuano a guardare avanti proprio per cercare di vedere o intravedere quella luce capace di illuminare le giornate più buie. Francesca ha perso la sua guerra ma ha vinto tante battaglie, una per ogni Wondi, uomo o donna che sia, che ha saputo risvegliare. Perché? Perché nessuno conosce le proprie possibilità finché non le mette alla prova. Questa non è mia questa saggezza, ma è una massima di un signore che è vissuto nel primo secolo avanti Cristo, si chiamava Publilio Sirio ed è autore di una raccolta di citazioni e di aforismi intitolata Sentenze. Quindi, insomma, in tempi non sospetti il nostro amico invitava a considerare i problemi come un'opportunità per mettere alla prova le nostre possibilità, quindi possiamo chiamarle energia, forza interiore, coraggio, determinazioni, che sono tutte delle doti, delle attitudini, delle risposte che in alcune situazioni, penso alla malattia, ma penso anche a una crisi, a una perdita di lavoro, a una fine di un amore, sembrano proprio doti da supereroi. Buongiorno a Maria Giovanna Luini, medica e comunicatore scientifica e scrittrice che oggi è qua con noi. Buongiorno, ciao Giovanna. Ciao, ciao, sono amica di Wondi, ecco perché sono qui. Allora, si chiama resilienza, Giovanna, quella capacità che alcune persone dimostrano di fronte a sfide molto impegnative, resilienza che però non è un sinonimo di resistenza e quindi è anche un modus, no, vivendi, sì, operandi, che non riguarda solo le persone che combattono con la malattia, ma direi le sfide in generale, tutte quelle sfide, quelle prove che non vorremmo avere, di cui vorremmo fare a meno. Sì, la resilienza è morbida, eppure è più tosta rispetto alla resistenza, perché la resistenza ti tiene rigido e in qualche modo non ti fa accettare quello che succede. Quando non accetti fai sempre più fatica e porti avanti il problema. La resilienza fa sì che tu accetti e non ti deve piacere per forza, però ti dà modo anche di adattare le tue reazioni e alla fine spesso di vincere sul problema, qualunque sia il problema. La resilienza, secondo me, è una dote superiore rispetto alla resistenza, perché va oltre, ci permette di reagire. Quindi se la resistenza è mi spezzo ma non mi piego, la resilienza è il suo contrario, mi piego ma non mi spezzo. Ma infatti non c'è nulla di male a piegarsi. C'è la flessibilità. Esatto, e chi si piega è flessibile, chi non riesce a piegarsi rischia davvero di spezzarsi, e spezzarsi è peggio. Allora, sei venuta qui perché hai detto subito io sono amica di Wondi. Sì. Siamo amiche di Wondi, Francesca la portiamo tutti nel cuore ed è con noi. Vogliamo anche essere vicine a tutte le persone che in questo momento cercano di tirare fuori la Wondi che c'è. Sì. In ciascuno di noi, per questo siamo amici, nel senso cerchiamo di accompagnarli e soprattutto lo facciamo con te oggi, Giovanna, che conosci la malattia come medico e come medico conosci anche quanto una malattia possa mettere alla prova. E ciascuno insomma è chiamato a trovare una strada nuova, un modo di reagire. Non a tutte le persone però i tempi coincidono, scatta sempre questo approccio. Dove si trova il coraggio? Tu vedi delle storie molto diverse, persone che negano la malattia, persone che di fronte ad una diagnosi mostrano grande coraggio e poi crollano, persone invece che la metabolizzano passo passo. Noi adesso parliamo di malattia, ma è una ricetta che si può applicare in ogni situazione. Si può essere resilienti in ogni momento della nostra vita, anche al lavoro, anche in una vita che non è segnata da sfide particolari. Sì, intanto mi state dando l'opportunità di dire una cosa che Francesca voleva dire e mi aveva chiesto di riferire poi. Lei temeva che quello che poi le è capitato in ultimo facesse perdere la speranza a tante persone. Invece no. Quello che le è capitato in ultimo non deve far perdere la speranza a tutte le donne che l'hanno seguita. Lei vuole essere luce e mi ricollego a quello che tu hai appena detto, Nicoletta. Ognuno di noi reagisce in modo individuale agli stress. Certo, ognuno di noi è inserito nel mondo, quindi la nostra reazione individuale dipende anche da chi abbiamo intorno. Francesca ha reagito in un certo modo, era anche circondata da amore, da tante persone che l'hanno aiutata e lei l'ha sempre riconosciuto. Ma sia che si parli di malattia, sia che si parli di stress, di una perdita di lavoro, di un momento di depressione, la nostra reazione individuale, non c'è chi reagisce meglio o peggio. Ognuno di noi ha una via. E io credo che chi ci aiuta, medici compresi, debba affiancarci nel trovare quella via individuale, quella via personale. Ci sono persone che non reagiscono con il sorriso, con la stessa forza di carattere che ha avuto Francesca, ma non significa che siano meno forti o coraggiose. Ognuno di noi ha una via. Il vero equilibrio sta nell'individuare quella via speciale per noi che tira fuori tutte le nostre risorse. Ecco, direi che bisogna, un ascoltatore ci fa notare, le parole sono facili. Però le parole arrivano, hanno un significato. Magari da quelle parole noi prendiamo le distanze perché pensiamo sono solo parole. Ma lasciamo che la parola entri dentro di noi e metta una piccola radice. E magari da quella parola può nascere una visione più positiva di sé, una fiducia nelle proprie capacità, nelle proprie risorse. Sono piccoli miracoli quotidiani che tu, Giovanna, vedi. Sì, li vedo. È vero che le parole sono facili, sono d'accordissimo, ma le parole, se ci pensiamo, possono salvare o uccidere, quindi saranno anche facili ma hanno un peso. Spesso le parole possono essere accompagnate da un gesto, accompagnate da un tocco, accompagnate da un abbraccio, da un pensiero, pensiamo a una telefonata a qualcuno che sta male. Quelle sono parole, certo sono molto facili, ma quanto cambiano una percezione? I miracoli esistono e sono miracoli fisici qualche volta e qualche volta purtroppo no, ma sono miracoli d'amore, miracoli psicologici. Esiste una salute che va oltre la salute del corpo. Arrivano delle segnalazioni, un ascoltatore ci manda su WhatsApp, ci segnala un gruppo, Nico Fan Club, due splendidi genitori che combattono la malattia del figlio non solo con il sorriso, ma facendo tantissimo per tanti bambini e famiglie nella loro stessa situazione. Proprio l'anno scorso, anzi era è quest'anno, in occasione della giornata delle malattie rare, insieme a Deborah abbiamo fatto un progetto con Teleton, raccogliendo la quotidianità delle famiglie che, in cui vive un bambino con una malattia rara, a volte talmente rara di cui non si conosce neppure il nome. Sì. Ecco, se voi le rimetteremo naturalmente per farvele ascoltare. Ecco, il coraggio nell'affrontare proprio una quotidianità che vuole essere una quotidianità normale è una, veramente un messaggio e un'indicazione che ci aiuta ad affrontare tutte le nostre faccende quotidiane, quelle che ci danno tanta pena, e ancora di più quando dobbiamo affrontare una sfida molto impegnativa come quella della malattia, della nostra malattia o della malattia di una persona che ci vive accanto. Andiamo ai nostri amici, Deborah. Sì, guarda, allora ne abbiamo pronta Francesca della provincia di Varese. Volevo anche leggervi il messaggio di Pierangela che ci scrive: per me Wondi sono mia madre e mio padre, come loro tutti i genitori di creature disabili, assolutamente incapaci di provvedere a se stesse, a volte malate, sempre problematiche, genitori che nel silenzio vivono e vivono le loro piccole, pesanti e invisibili battaglie quotidiane. Quindi anche per loro un nostro messaggio. Allora, voglio leggervi anche il messaggio di Sabrina. Mi è stato diagnosticato il cancro al seno a luglio 2013, anche io oggi ho un seno che sta su da solo, che rimanga fra noi, preferivo quello di prima, e ricordo perfettamente l'intervista a Francesca e l'aiuto che mi ha dato durante la mia chemio, e oggi che mi dico che per il momento tutto tace e mi guardo indietro, mi accorgo che durante la malattia la mia ironia era all'apice, per assurdo più paura ora che allora. Grazie per aver fatto questa trasmissione, grazie e un grazie anche a Sabrina che ci ha mandato questo messaggio. Ripesco io, Francesca dalla provincia di Varese, che salutiamo. Francesca, benvenuta. Buongiorno. Anzitutto, vabbè, brevissimamente ringrazio perché oggi avete dedicato questo pensiero pur struggente a questa donna meravigliosa che accompagnate. Sì, Francesca, Francesca non avrebbe voluto che nessuno piangesse, perché Francesca ci ha dato a tutti, alle persone che sono malate, alle persone che malate non lo sono, perché io credo che mentre dagli errori non si impara nulla, dagli esempi, gli esempi degli altri possono davvero cambiarti la vita. E quindi noi ricordiamo Francesca e mettiamo, proprio ingraniamo un po' la marcia come lei ha sempre fatto, sempre rialzandosi. E quindi stiamo su, perché e questo secondo me è il modo di raccogliere un po' il testimone di Francesca. E quindi? Come dicevo, ho ben due sorelle, una più grande di me del 58, io sono del 61, e una più piccola del 63, che già anni fa sono state colpite entrambe dal male. Fortunatamente non hanno fatto nessuna delle due la chemio, ugualmente la radio e altri trattamenti abbastanza pesanti, esatto, perché poi comportano tutta una serie di reazioni sul fisico, certo, a vari livelli, certo, le articolazioni, oppure comunque il mal di stomaco, eccetera, i reflussi, specialmente la maggiore. E io proprio alla maggiore, che era quella diciamo messa peggio dell'altra, ho regalato proprio il libro di Wondi, proprio perché avendolo letto ho ritenuto che fosse importantissimo come stimolo per la disposizione d'animo con cui affrontare il percorso di guarigione, di cura e di guarigione, e mettendoci quella marcia in più perché comunque è provato che se la si affronta con un certo spirito entusiastico anche le cure mediche non è solo una convinzione, credo, è proprio Giovanna, sentiamo Giovanna che ci dice che mi permetto di dire una cosa da medico. Non è la questione dell'affrontare in modo entusiastico, perché si parla di tumore, quindi no. Cioè c'è chi reagisce in modo allegro, tra virgolette, pur consapevole, e chi no. Non è che chi va in depressione vada peggio, perché non è così. L'importante è la consapevolezza, l'importante è la partecipazione alle cure. L'unico dato realmente osservato in termini scientifici è che chi prende coscienza della situazione e a un certo punto la volge al positivo, nel senso che decide di cooperare, è vero che può anche reagire meglio alle cure. Diciamo che l'unica cosa che non aiuta realmente è il disfattismo, dire non ce la faccio. Poi che qualcuno sia allegro, aperto, disposto a ridere, ironico, è bello, è bellissimo, è più facile anche per chi sta intorno, però non è lì il segreto, diciamo. Allora, se intanto volete intervenire, 800 24 0024 per così condividere un po' questo coraggio che molte persone cercano di prendere per affrontare le sfide, questa capacità un po' di rialzarsi, ecco, è un aspetto su cui mi piace tornare e che vorrei sottolineare, cioè lo abbiamo sentito dire tante volte, vincere non è quella persona, no, non vuol dire essere sempre in piedi, arrivare prima, ecco, ma vince chi si rialza, che cade si rialza, lo abbiamo detto in tante occasioni, anche in tante occasioni in cui abbiamo provato a parlare anche di dipendenza dal fumo, si smette di fumare, si riprende, ok, ho ripreso, ma io posso rismettere, e quindi è questa resistenza che ha, in questo senso possiamo usare la parola di resistenza, cioè io torno di nuovo in piedi e vado avanti nonostante tutto. Giovanna? Sono d'accordissimo, perché tornando a prima, ognuno di noi reagisce come sa. Le cadute sono normali, le cadute sono dolorosissime, a volte ci sembra di non poterci rialzare, ma nel momento in cui ci rialziamo, anche se ci rialziamo piangendo, anche se ci rialziamo dicendo due parolacce anche brutte, però ci siamo rialzati, e questo è fondamentale. È un po' quello che ci insegnano anche gli sportivi, ed è uno sportivo il nostro prossimo amico Leonardo Cenci, perugino, 44 anni. Ciao Leonardo. Ciao, Noi abbiamo festeggiato il tuo compleanno in diretta la scorsa volta, quando ti abbiamo sentito prima della tua partecipazione alla maratona di New York, e quindi, quindi gli anni li sappiamo giusti. Esatto, sì, avete colto nel segno. Adesso sto, ahimè, ecco, invecchiando, però dai, ancora mi sento ben pieno di energia, nonostante tutto, ecco. Nonostante tutto, tra l'altro, senti, tu volevi battere il record di 5 ore e 32 minuti di Fred Lebow, che è stato il fondatore della maratona di New York, tra l'altro, che corse con un tumore al cervello, a proposito di resilienza. Esatto. E la buona notizia è che ci sei riuscito. Di quanto, però? Sì, non solo lo sono riuscito, ma l'ho veramente stracciato. Vedi come lo sportivo vuole proprio vincere e stravincere, stracciato, Leonardo. Ecco, non me l'aspettavo così, perché pensa che io ho corso la maratona. Senti, Leonardo, non ti sentiamo bene, aspetta la maratona, ma noi ti ripeschiamo dopo i mercati. Sì, facciamo così, andiamo avanti rapidamente, ce li togliamo di torno le borse oggi stamattina. Perché non si sente bene, invece con Leonardo vogliamo proprio parlare a proposito di resilienza, di come ha trovato il coraggio di affrontare una diagnosi sicuramente non felice, ha messo il coraggio, e poi vogliamo parlare anche dell'associazione che ha un nome che ci piace, che piaceva anche a Francesca e piace a Francesca, Avanti Tutta, e noi andiamo avanti tutta anche con i mercati, e poi però Deborah poi affronteremo abbiamo anche un tema molto esatto, ne abbiamo già parlato, tra l'altro era presente di nuovo con noi Giovanna Luini, che ci accompagna sempre in questi percorsi. Parleremo della malattia sul lavoro, c'è una battaglia molto intensa condotta da una grandissima donna, Daniela Fregosi, Afrodite K, che sta portando a casa dei bei risultati e che riguardano proprio le tutele delle persone che si ammalano e che qualche volta non ne hanno tantissime sul posto di lavoro, o non ne hanno tantissime nel mondo del lavoro, soprattutto quando sono dei lavoratori o delle lavoratrici autonome. Belle notizie ci sono, le raccontiamo tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Aceto Balsamico di Modena del Duca, per un Natale al vertice del sapore. Cuore e denari. Siamo ritornati in questa puntata. Che titolo possiamo dare a questa puntata? Ce la faccio? posso farcela? Voglio farcela? Vinco io? Anche avanti tutta ci potrebbe piacere, che dici? Molto, molto, e abbiamo ripescato Leonardo. Leonardo? Eccomi, sì, diciamo, mi piace moltissimo avanti tutta. Casualmente. raccontaci un po' di avanti tutta, che allora, già il titolo lo racconta, ma insomma ti dà proprio... che parte da lontano, perché diciamo sono state le mie prime due parole quando poi mi sono ripreso dalla broncoscopia, quando mi prelevarono in prima diagnosi appunto il tessuto di massa tumorale, e ho diciamo patito parecchio questo esame molto invasivo, ho avuto problemi tra virgolette a riprendermi, quindi sono stato qualche ora anche privo di conoscenza. E quando ho aperto gli occhi praticamente ci avevo sopra mamma e papà, con ovviamente i loro occhi del terrore, e io, ecco, per farli stare un po' meno preoccupati possibile, gli ho aperto gli occhi anche io, ero mezzo rincoglionito e gli ho detto avanti tutta, e quindi sono state le mie prime due parole, diciamo prima ancora che sapessi di avere il cancro. E da lì, ecco, diciamo, deciso, quando io sono stato in condizioni diciamo meno complesse da poter tornare a fare una vita quasi accettabile, ho deciso di fondare un'associazione Ollus che appunto ha questo nome, e adesso noi, ecco, la trasmettiamo con il mio messaggio che ora via via negli anni sto dimostrando, di come l'attività motoria, di come lo stile di vita sano e di come soprattutto la mentalità diciamo attiva, dinamica e energica, quindi la mentalità sportiva, può riuscire a compiere cose che magari uno preconcettualmente presume e ritiene impossibili. E quindi avanti tutta. Io ti stavo ascoltando. Esatto. E guardavo... No, perché ti piace l'inflessione perugina, anche io. Questo ero così deliziata da un accento, grazie, che conosco molto bene. Senti, Leo, dovresti fare una corsetta fino a qua una volta, dai, Cuore Denari, in tanto diretta. Tanto dopo che hai fatto quella di New York, cosa ti ci vuole a venire qui? Io, guarda, adesso ne vengo proprio da una conferenza stampa che sono stato chiamato come testimonial in una mezza maratona qui, che io, ecco, vorrei rappresentare più che altro l'Umbria, è la più importante diciamo della nostra regione, che è l'Invernalissima, che attraversa anche la città di Assisi, quindi l'Invernalissima, fantastico. Invernalissima, quindi ecco, sicuramente fatto ciò, se magari voi avete dei contatti magari con la Maratona di Milano, con qualche altro evento sportivo, io sarò ben felice di venire su a trovarvi, in maniera tale che almeno... Insomma, dobbiamo e se no organizzare una maratona proprio noi. E così, oppure una dai, maratona. Guarda che ci pensiamo, radio 24, che Cuore Denari è un laboratorio di idee, di guarda, proposte. Qua ci abbiamo i neuroni, non tutte vengono sostenute, ma insomma. No, ma noi ci proviamo. Insomma, è come la goccia che scava la roccia, facciamo. Ecco, sappiate che io sono a vostra disposizione in pasto per voi milanesi. Grazie. Allora, Leo, avanti tutta, grazie. No, ma voglio sapere, insomma, in quanto hai corso la maratona di New York? Questa non è che te ne vai e non ce lo dici. Quindi? No, allora, quindi è stato un tempo al di sopra di ogni mia più rosea aspettativa, l'ho corsa veramente con tanta voglia di riscatto, e praticamente 4 ore 27 minuti e 57 secondi, quindi un tempo eccezionale. Ho lasciato dietro più di 30.000 persone sane, senza cancro, quindi grossa conquista. No, ma io solamente corri per 4 ore e 32 minuti, poi vediamo. Cioè, io immagino che dopo 30 secondi mi sono stufata, perché la corsa non mi piace, sono sportiva. Ma questo è un preconcetto appunto della resilienza organica della nostra mente. Eccola qua. Allora, a casa la lezioncina. Hai visto? Dai, ci tocca correre. Sì. Grazie, Leo. Leonardo, prego, un abbraccio. Avanti tutta. Manuela, buongiorno da Roma. Buongiorno, buongiorno. A me piace più, io sono qui. Io sono qui, vedi. ogni io faccio la parrucchiera, per cui sono diventato mio malgrado punto di riferimento di tante donne. Bene, no? Pure lei ci farebbe comodo, Manuela. Venga qua con Leonardo con la corsetta, va. Quando vuole. Io ho due sorelle che hanno avuto il mio stesso problema, io ho avuto il problema del tumore al seno, chi ha l'ovaio, chi ha il seno, insomma, va bene. Ognuno di noi ha avuto il suo percorso, devo dire tre guerriere. Non abbiamo fatto fatica, non lo so, cioè nel senso che non ci ho pensato minimamente di morire. Non so come spiegare. Sembrava, forse questo mi ha aiutato, l'ho vissuto in maniera distaccata, sembrava che parlassi di qualcun altro. Invece vedevo la gente che rimaneva un po' così quando mi diceva: c'hai un po' i capelli rovinati, e dico: ringrazio a Dio che ci sono, perché sto facendo chemioterapia. Rimanevano tutti un po' sconvolti, no? Vabbè, insomma, io per ricordarmi quest'anno brutto, nefesto, brutto perché comunque sono cose pesanti, mi sono comprata, desideravo una casa in Salento, l'ho comprata e restaurata quell'anno. Brava! E sapete tutti che mi dicevano, ma tu in queste condizioni ti compri una casa? Certo. Io facevo, oh, belli, io quando sono guarita voglio progettare. No. Manuela, lei da oggi è il nostro nuovo idolo. No. Diciamo che ho fatto un po' di fatica perché seguire una ristrutturazione da Roma al Salento facendo chemioterapia, cose non così. È una passeggiata. Però posso dire a tutte le donne, a tutte, perché io do il numero di telefono mio anche a quelle che non conosco per aiutarle. Anzi, ho pure detto a un ospedale che poi neanche mi hanno risposto, perché io non capisco certe cose, secondo me, che avrei potuto aiutare psicologicamente nell'estetica le donne se avessero voluto, anche gratis. È vero. Che fra l'altro faccio. Ah, mi sono messa a fare volontariato pure a Rebibbia, a fare i capelli alle detenute. Brava. Insomma, Manuela. Ho fatto tante cose. Daniela, presidente onoraria di Avanti Tu. Manuela con lo stesso entusiasmo, se non di più, di quando stavo bene, ma in realtà sono stata male per le cure, perché purtroppo sono un po' pesante. Però non ho mai smesso, mai di pensare che ce l'avrei fatta. E mi è piaciuto, donne... Manuela, quando hai detto Abelli, ecco, Abelli, io sono qui. Questo potrebbe essere lo slogan di oggi. Manuela, grazie. Ricordiamo, Manuela ha toccato un tema importante, che è quello dell'aspetto fisico, no? Di prendersi, di continuare a curarsi e di ci sono tante associazioni. Sì. Noi vi abbiamo messo sulla pagina di Cuore Denari, tra le tante, Acto Onlus, che si occupa di aiutare le donne che devono combattere con un tumore molto cattivo, aggressivo, che è il tumore ovarico, di cui noi ci siamo impegnati per fare anche tanta informazione. E ci sono tantissime belle iniziative che vanno anche dal trucco, ma anche al supporto psicologico, alla risposta degli esperti, perché tante volte ci si sente un po' smarriti in questo percorso. Si ha bisogno di parlare con il medico, di essere rassicurati. I tempi però, i medici sono tanti, ma insomma non bastano per rispondere subito all'istante, quindi si matura la sensazione difficile di essere abbandonati. Invece Giovanna. Assolutamente, ma questa telefonata è piena di spunti. Intanto ciò che fa Acto Onlus, che conosco bene, è importantissimo perché non fa sentire sole le donne. La sensazione di solitudine è tremenda da tutti i punti di vista. E poi stimolare le persone a truccarsi, amare il proprio corpo, fare cose nuove. La signora ha comprato la casa, possiamo fare anche cose più piccole, ma possiamo anche fare il giardinaggio, senso? Metterci esatto. A cucinare il tiramisù. Il senso è: non lascio entrare la malattia così profondamente, non divento la mia malattia, che è quello che ha detto anche la signora Bonino. Io non sono la mia malattia. E la vita è bella, anche se affrontarla poi negli aspetti pratici può essere molto difficile. Infatti parliamo, come abbiamo anticipato prima, un po' di quello che accade spesso e volentieri purtroppo nel mondo del lavoro, perché per molte lavoratrici e molti lavoratori, soprattutto quelli che appartengono al mondo del lavoro autonomo, un solo giorno di malattia può rappresentare un bel problema, no? Fatturato mancato, clienti che non si incontrano, un giorno di ritardo nella consegna di un ordine, con tutte le conseguenze che possiamo immaginare. Immaginate se Poi, invece di un giorno di febbre, la malattia che si presenta è più seria, più grave, richiede una terapia e un recupero lungo e faticoso. Insomma, in certi casi ci sembra proprio vietato ammalarsi. Daniela Fregosi, in arte Afrodite K, è una donna che da lavoratrice autonoma si sta impegnando moltissimo in questa battaglia di rivendicazione dei diritti assistenziali durante la malattia. E partendo dall'esperienza vissuta sulla propria pelle, perché è una donna che è stata malata e ha affrontato con grande coraggio questo momento difficile, lavorando ad un blog e ad una petizione intitolata proprio Diritti e tutele per i lavoratori autonomi che si ammalano, ci ha raccontato appunto i risultati che è riuscita a portare a casa con questo lavoro, mettendoci in primo luogo la sua faccia. È stata ospite tante volte di Cuore e Denari e quindi abbiamo pensato di coinvolgerla anche stamattina per chiederle a che punto siamo nel riconoscimento dei diritti per i lavori autonomi in questo senso. Abbiamo registrato ieri il suo contributo perché Daniela proprio in questo momento sta partecipando alla Camera dei Deputati all'incontro dibattito l'inclusione dei malati di cancro nel mondo produttivo, utopia o realtà, organizzato dalla Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia e dall'intergruppo parlamentare, pensa Nicoletta, c'è anche un intergruppo parlamentare malattie rare. Sentiamo cosa ci ha detto ieri ai nostri microfoni. La petizione che ormai sta arrivando alle 105.000 firme è stata in parte incorporata nello Statuto dei lavoratori autonomi, che è stato approvato a novembre in Senato e attualmente è fermo per la votazione alla Camera. I punti essenziali contenuti nella petizione e che devono essere votati alla Camera sono quelli di equiparare l'indennità di malattia alla degenza ospedaliera, sia nei casi di tumori, ma anche di malattie gravi e croniche, e questo, diciamo, è uno scamotage che permetterebbe di ampliare il famoso limite dei 60 giorni massimo all'anno che i professionisti della gestione separata INPS hanno come indennità di malattia, perché la degenza ospedaliera in realtà può arrivare fino a 180 giorni. Quindi questa sarebbe una grossa conquista. L'altra conquista sempre chiesta dalla petizione è quella di congelare i contributi INPS per un massimo addirittura di 2 anni, come noi avevamo richiesto. Questo vuol dire per il lavoratore autonomo in sostanza non essere rincorso dall'INPS per gli acconti e i pagamenti, ma potersi vivere il periodo della malattia con un minimo di serenità in più. Quindi in ballo alla Camera ci sono questi due aspetti che andranno votati. Daniela, una battaglia che è durata 3 anni, al momento avete questo risultato, che sensibilità avete trovato dalla politica alla quale vi siete rivolti o ti sei rivolta? Allora, è stato molto faticoso, devo dire. La politica ha iniziato a essere sensibile grazie anche a voi, cioè grazie ai media che hanno dato talmente tanto risalto a questa battaglia, radio, televisioni, giornali, che in effetti è diventata quasi una carta da giocarsi, diciamola tutta. Complice anche un tema caldo, quello del lavoro autonomo, che finalmente piano piano è stato preso in carico dalla politica, quindi c'è stata una serie di congiunture favorevoli che hanno fatto sì che in soli, tra virgolette, 3 anni questa cosa sia stata presa in carico, tenendo conto di un passato completamente fermo, ecco, cioè questo devo dire che è un grande successo. La prossima battaglia a questo punto qual è? La prossima battaglia è continuare questa battaglia sulle altre categorie, perché non si ammalano solo i professionisti della gestione separata e quindi si ammalano anche i piccoli artigiani, i piccoli commercianti, i professionisti degli ordini, cioè tumori e malattie croniche colpiscono tutti. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta... Cuore e denari. Siamo tornati insieme. In questa puntata di confronto stanno arrivando tantissime telefonate all'800 24 00 24. Possiamo anche invitare i nostri ascoltatori, se vogliono, a lasciare un messaggio sulle pagine di social del nostro programma, una ricetta per andare avanti, per dire io sono qui, avanti tutta, come dice il nostro amico Cenci, e per un po' farsi coraggio. E tante volte fuori onda pensavamo che ci si fa coraggio per dare coraggio alle persone che abbiamo a fianco, per sostenere i nostri figli, per sostenere gli amici, per dire dai ce la faccio. Ed è una cosa strana, perché le persone che vivono accanto a chi sta affrontando una sfida importante vanno sostenute e sono al tempo stesso il sostegno. C'è questo duplice ruolo. Entrambi i ruoli sono importanti, Giovanna. Sì, intanto quando ci facciamo forza per gli altri, quello non è altro che amore, è quello che diceva Umberto Veronesi. Si reagisce agli stress, ai traumi, anche alle malattie per amore. E quindi questo è amore. Chi ci sta accanto, chi sta accanto alle persone che stanno male per varie ragioni, da una parte deve consolare, reggere, sostenere, aiutare, dall'altro dentro di sé ha uno strazio e quindi ha bisogno di aiuto. E questa alchimia, perché veramente un'alchimia, deve avere alla base l'amore, perché non esiste un giusto o sbagliato, non esiste l'amore. Esiste l'amore ed è una lettera piena d'amore quella che Alessandro ha scritto e che ha fatto il giro del web. Ne ascoltiamo un brevissimo estratto. No. Non ce l'abbiamo, ma ve la racconto io. Non vi racconterò stupide favolette. Wondi ha perso la battaglia perché lei voleva vivere. Francesca amava follemente vivere, di più. Non ho mai conosciuto una persona più attaccata di lei alla vita. Sempre gioiosa, sempre sorridente, sempre ottimista, sempre propositiva, sempre sul pezzo, sempre avanti. Così scrive Alessandro, e abbiamo preso un breve estratto per... dicevamo, questa lettera ha fatto il giro del web, e secondo me anche in questo caso anche Ale è stato Wondi, perché ha mandato un messaggio molto importante, nel sottolineare quanto l'amore e il sostegno del compagno possa fare davvero la differenza. In linea con noi abbiamo un nostro amico, il professor Corrado Tinterri, direttore della Breast Unit dell'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico di Europa Donna Italia. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno. Ciao. Allora, voi avete dedicato particolare attenzione anche a questa, mi passi il termine, acquisizione di consapevolezza, tanto che da questa riflessione è nato anche un libro illustrato scritto da una psicologa dell'Humanitas, Emanuela Mencaglia, I dubbi di lui, 10 consigli pratici su come affrontare la situazione. È un libro di cui c'è bisogno, perché secondo i dati condotti dagli specialisti di Eusoma e anche dall'AIOM, sono in continuo aumento i casi di coppie che invece di fronte a questa sfida importante non reggono, si frantumano. E a questo voi avete dedicato particolare attenzione, perché anche questo fa parte del processo, del percorso di cura. Professor Tinterri. Sì, certo, noi abbiamo posto particolare attenzione proprio ai problemi relazionali che genera purtroppo il cancro, perché spesso quando si ammala, soprattutto una donna giovane, come diceva lei, i temi riguardano le relazioni che è in corso, quindi in particolare col partner o coi figli. E purtroppo spesso le donne in qualche modo vengono abbandonate più facilmente dell'uomo, e quindi in qualche modo noi cerchiamo di creare nell'ambito del percorso del nostro centro di sinologia una serie di valutazioni, di incontri, di strumenti per la coppia, proprio per cercare in qualche modo di prevenire, di risolvere, di mettere comunque a loro agio le persone durante questo percorso che può essere molto lungo e può essere molto irto di difficoltà. E quindi crediamo che sia importante poter permettere a queste persone di usufruire di questi aiuti in un percorso, devo dire, molto complicato, ma come quello del tumore al seno. Grazie professor Tinterri, le chiediamo di restare con noi perché abbiamo aperto con l'intervista di Francesca e chiudiamo con il messaggio che tutti noi dobbiamo portare nel cuore, perché questa è l'eredità che ci ha lasciato Francesca, non la facciamola mai spegnere. Grazie, molto volentieri, rimango in linea. Sì. Ho imparato che non devo smettere di sognare, perché i sogni sono il motore dell'esistenza. Non sono megalomane e non ho desideri impossibili. In poche parole, ho imparato che vale la pena di vivere. Amare la vita nonostante tutto, anche di fronte a quelle sfide che non avremmo voluto incontrare e affrontare. Allora, grazie a voi due, adesso vi coccolo un po' io perché qua l'emozione è molto alta. Noi oggi daremo l'ultimo saluto a Francesca, porteremo tutti i nostri ascoltatori con noi idealmente, per cui con cuore domani, con cuore e denari ci ritroviamo domani. Salutiamo anche il professor Tinterri. Grazie anche ai ragazzi, alla redazione, alla regia per aver sostenuto questa puntata complessa ma piena comunque di luce, come direbbe Giovanna Luini. Buona giornata a tutti. Ciao.